La trave che è conficcata nei nostri occhi, come è noto, non ci impedisce di vedere il fuscello negli occhi altrui. Scendo agli inferi della metropolitana in un'ora relativamente solitaria. Sulla banchina, infatti, la gente in attesa è pochina. Tre o quattro persone alla mia destra, una ragazza è seduta là in fondo alla mia sinistra. A metà strada sta trotterellando verso di lei un tale avvolto in un impermeabile ocra chiaro. Mi accingo all'attesa che il cartello elettronico pianifica consolatorio in 3 minuti e mezzo. Ridò un'occhiata alla mia sinistra e vedo che il tale in impermeabile è arrivato all'altezza della ragazza seduta. Le si avvicina, le dice qualcosa. Lei gli rivolge lo sguardo solo per un attimo, rimane dov'è, ma si ritrae, guarda dalla mia parte. L'uomo in impermeabile fa una specie di inchino sinistro, esageratamente goffo, poi riprende a trotterellare verso il fondo. Se ne va. La ragazza non guarda più dalla mia parte, come se un allarme fosse cessato. Ma, l'uomo in impermeabile si ferma, gira sui tacchi e torna indietro. E ora lo vedo meglio, parrebbe fin di una certa età. Si riavvicina alla ragazza, si riavvicina troppo, supera la distanza sociale, le alita qualcosa sul volto. Lei non gli dà retta, si irrigidisce e riguarda dalla mia parte. È a questo punto che decido di intervenire. Nulla di straordinario, ben inteso, ma mi muovo nella loro direzione e mi muovo con passo spedito, contando sul fatto che basti una testimonianza attiva, un eventuale aiuto a portata di mano per far recedere da una cattiva intenzione. Lei mi vede, lui continua a dirle qualcosa che lei finge di non sentire, si accorge che lei sta guardando dalla mia parte e allora mi vede anche lui. Come speravo, si affretta a ricomporsi nella sua civiltà estemporanea e si allontana. La ragazza mi lancia uno sguardo di ringraziamento e arriva il metrò. Tutto finito. È tutto finito fino a un certo punto, perché dopo alcune titubanze dell'uomo in impermeabile, alla fin fine saliamo tutti nel medesimo vagone, dove sono distribuite una decina di persone. La ragazza si siede, io sto in piedi e anche l'uomo con l'impermeabile sta in piedi, abbastanza vicino a me, ma avendo l'accortezza di voltarmi le spalle. Lo tengo comunque sotto controllo. Lo sento sotto controllo per poco. Perché dal fondo del vagone proviene una voce preoccupante. Qualcuno sta gridando che qui dentro c'è la donna più brutta del mondo. La donna orrore degli orrori, il mostro degli abissi, l'orribile a vedersi. È un tale, apparentemente nel fiore degli anni, ratificato da una conciatura curata, da un codice vestimentario nella norma, perfino munito di ombrello come la giornata piovosa prescrive. È là in fondo che urla il suo monito nell'indifferenza generale, nell'indifferenza della signora che legge la sua rivista patinata, nell'indifferenza della ragazza che sta leggendo l'ultimo romanzo di Montalbán, nell'indifferenza di chi sta scrutando le punte delle proprie scarpe, nell'indifferenza di chi finge di dover scendere la prima fermata e di chi ha fatto l'abitudine a tutto. Il tema non cambia, a tonalità più e meno aggressive si tratta sempre di denunciare l'esistenza nel nostro vagone di un orrore senza fine, della femmina mostruosa e del male impersonificato. Alla lunga, nonostante la potenziale degenerabilità di un equilibrio decisamente arduo, è un litania. Dopo tre fermate, accompagnata dallo sguardo dell'uomo in impermeabile, scende la ragazza che era stata molestata sulla mia banchina d'attesa. Ma qui può scendere e salire chi gli pare che l'ossessione dell'urlatore là in fondo non si placa. Alla quarta fermata, però, scende lui. Non senza qualche incertezza, tipo vado o non vado, ma scende. Senza mai smettere di declamare la sua denuncia contro l'oscura presenza che ci minaccia. Come è sceso, la disattenzione generale si prende un attimo di pausa. Tutti respirano di sollievo e smettono le occupazioni cui solertemente attendevano. Anche la ragazza che stava leggendo l'ultimo romanzo di Montalbán solleva la testa e sollevandola incontra lo sguardo dell'uomo con l'impermeabile, che prontamente le dice: non se ne può più di matti, si incontra certa gente, c'è da aver paura. E lei, non sapendo di aver incontrato il calzolaio dalle calze rotte, lei annuisce.